terzo anello, ad alta voce, la montagna incantata di Thomas Mann. I due cugini, usciti per la seconda passeggiata mattutina, scesero a Davos Platz. Per via Joachim rimase assorto e Castorp, costipato com'era, sbuffava e si raschiava il catarro che gli saliva dal petto arrugginito. Sulla via del ritorno Joachim disse: «Ti voglio fare una proposta. Oggi è venerdì. Domani, dopo colazione, mi presento alla visita mensile. Non è una visita generale. Behrens mi percuote qua e là e detta qualche appunto a Krokowski. Potresti venire anche tu. E data l'occasione, chiedere che ausculti anche te. È ridicolo. Se tu fossi a casa, manderesti a chiamare Heidekind. Qui, invece, con due specialisti in casa, vai in giro, non sai che cos'hai, quanto possa essere grave. Non sai se faresti meglio a metterti a letto». «Sta bene», disse Castorp. «Come credi? Certo, lo posso fare. Ed è anche interessante per me assistere a una visita». Così si misero d'accordo, e quando arrivarono davanti al sanatorio, il caso volle che incontrassero proprio Behrens e trovassero la buona occasione di esporre su due piedi il loro desiderio. Behrens, alto e con quel collo robusto, veniva dal portico, un cappello rigido sulla nuca, un sigaro in bocca, con le guance blu e gli occhi sporgenti, in piena attività, sul punto di dedicarsi alle visite private giù nel villaggio, dopo aver lavorato nella sala operatoria. Come lui stesso spiegò: «Buon appetito, signori», disse. «Sempre in giro. Bello laggiù nel gran mondo? Vengo appunto da un duello impari ad arma bianca e sega per le ossa. Affare grosso. Resezione delle costole. Una volta in questi casi il 50% rimaneva a secco sulla tavola. Oggi abbiamo fatto progressi, ma capita ancora spesso che si debba, mortis causa, piantarla lì, prima di arrivare in fondo. Beh, quello di oggi è stato allo scherzo e si è portato da bravo e gagliardo. Buffo. Un torace così che non è più un torace. Parti molli, mi spiego? Non adatte allo scopo. Idea, per così dire, offuscata. E loro? Campiamo salutevolmente? È una pacchia vivere in due, vero Zimsen? Vecchio furbone. E per chi piange lei, turista in vacanza?» disse rivolgendosi improvvisamente a Castorp. «Qui è vietato piangere in pubblico. Regolamento interno. Altrimenti, dove si va a finire?» «Vede, direttore, sono costipato», spiegò Castorp. «Non capisco come mai mi sia buscato tutto questo catarro. Ho anche la tosse. Mi ha preso seriamente il petto». «Senta», disse Behrens, «allora dovrebbe consultare un bravo medico». I due si misero a ridere e Joachim, battendo i tacchi, rispose: «Lo stiamo facendo, direttore. Domani devo venire per la visita. Vorremmo quindi sentire se lei può avere la compiacenza di visitare anche mio cugino. Si tratta di vedere se potrà partire martedì». «Vivu», disse Behrens. «Vivu CP. Ben volentieri, con piacere. Si doveva farlo già da un pezzo. Già che si è qui, perché non sottoporsi anche a questo? Certo, però, non si vuole essere invadenti. Dunque, domani alle 2, appena vi allontanate dalla greppia». «Infatti ho anche un po' di febbre», aggiunse Castorp. «Ah, senti questa», esclamò Behrens. «Anche le novità mi racconta. Crede che non abbia gli occhi per vedere?» E puntò il grosso indice verso quegli occhi arrossati, lacrimosi sotto le palpebre paonazze. «Se l'è misurata?» Castorp disse modestamente i gradi. «Di mattina? Non c'è male. Per cominciare non le manca il talento. Beh, domani alle 2, affiancati. Sarò molto onorato. Felice alimentazione!» E con le ginocchia storte, remando con le braccia, prese la strada in discesa, seguito dalla scia di fumo del suo sigaro. Thank you. Venne il pasto principale del giorno seguente e col levar delle mense l'ora dell'appuntamento. In seguito Castorp ricordò che durante quel pasto Madame Chauchat portava un maglione giallo oro con grandi bottoni e tasche orlate. Nuovo, in ogni caso nuovo per lui. Ed entrata in ritardo come al solito, si era messa un istante di fronte alla sala nel modo che Castorp ben conosceva. Poi, come faceva 5 volte al giorno, si era avvicinata, col passo slittante, alla sua tavola e sedutasi mollemente aveva cominciato a mangiare, chiacchierando. Castorp, come ogni giorno, ma con particolare attenzione, l'aveva vista muovere la testa mentre parlava e, guardando la tavola dei russi a modo, a filo delle spalle di Settembrini, il quale era seduto a capo della tavola interposta di sbieco, aveva notato di nuovo la rotondità del collo e il rilassato portamento delle spalle di lei. La signora Chauchat, però, durante la colazione, non si era voltata mai a guardare la sala. Ma quando ebbero mangiato la frutta e la grande pendola sul lato breve della sala a destra, dove era la tavola dei russi incolti, ebbe suonato le 2, essa l'aveva fatto, provocando in Castorp una scossa misteriosa. Mentre la grande pendola suonava le 2, 1, 2, la bella malata aveva girato adagio la testa e un po' anche il busto, e al di sopra della spalla aveva guardato chiaramente e apertamente verso la tavola di Castorp, e non solo in genere verso la sua tavola, ma senza possibilità di equivoco e con precisione verso di lui, con un sorriso intorno alle labbra chiuse, negli occhi stretti da Pshibislab, quasi volesse dire: «Ebbene, è ora, non vai?» Poiché quando parlano soltanto gli occhi si discorre col tu, anche se le labbra non hanno ancora nemmeno pronunciato il lei. Ed era stato un incidente che in fondo all'anima aveva sconvolto e sbigottito Castorp, il quale non aveva quasi creduto ai propri sensi e attonito aveva fissato lo sguardo prima negli occhi della Chauchat, poi alzandolo al di sopra della fronte e dei capelli di lei, nel vuoto. Sapeva forse che egli si era prenotato per la visita alle 2? Proprio così gli era sembrato. Eppure era quasi così inverosimile come che avesse saputo la sua intenzione, concepita un momento prima, nell'ultimo minuto, di far dire da Joachim al direttore che il raffreddore era migliorato e la visita diventava quindi superflua. Un'idea i cui vantaggi, però, a quel sorriso interrogativo, erano svaniti, tramutandosi in noia e svogliatezza. Nell'attimo successivo, poi, Joachim aveva già deposto sulla tavola il tovagliolo arrotolato, gli aveva fatto un cenno sollevando le sopracciglia e, dopo il solito inchino ai commensali seduti, si era allontanato. Dopodiché Castorp, barcollando dentro di sé, ma con passo esteriormente fermo e con l'impressione di avere ancora addosso quello sguardo e quel sorriso, uscì dalla sala, seguendo suo cugino. Dal mattino del giorno prima non avevano più parlato del loro proponimento e anche ora camminavano in tacita intesa. Joachim aveva fretta, l'ora stabilita era già scoccata e il consigliere Behrens teneva alla puntualità. Dalla sala da pranzo si passava per il corridoio del pian terreno, davanti all'amministrazione, e per la scala pulita e ricoperta di linoleum tirato a cera si scendeva nello scantinato. Joachim bussò alla porta, che esattamente di fronte alla scala una targhetta di porcellana indicava come ingresso all'ambulatorio. «Avanti!» gridò Behrens, calcando sulla prima sillaba. Stava in mezzo alla stanza, in camice bianco, e con la destra batteva lo stetoscopio nero contro la gamba. «Andiamo, andiamo!» disse volgendo gli occhi gonfi all'orologio a muro. «Un po' più presto! Non siamo qui esclusivamente per lor signori!» Alla doppia scrivania davanti alla finestra era seduto il dottor Krokowski, pallido contro il camice di alpaca nera, i gomiti sul piano, in una mano la penna, l'altra nella barba, con dei fogli davanti a sé, probabilmente la cartella clinica, e guardò i due che entravano con l'aria velata di chi si limita ad assistere. Thank you. Il consigliere Behrens, a gambe larghe e piegato all'indietro, lo stetoscopio sotto il braccio, cominciò col percuotere molto in alto la spalla destra di Joachim e facendo perno sul polso adoperava l'enorme dito medio della destra come martello e la sinistra come appoggio. Poi scese sotto la scapola e percosse la parte media e l'inferiore della schiena verso il fianco. Dopodiché Joachim, già ammaestrato, alzò il braccio per farsi percuotere anche sotto l'ascella. Tutto ciò si ripeté a sinistra e alla fine il dottore comandò «Dietro front!» per la percussione del petto. Cominciò dalla clavicola, immediatamente sotto il collo, continuò sopra e sotto la mammella, prima a destra, poi a sinistra. Quando ebbe percosso a sufficienza, passò all'auscultazione, posando lo stetoscopio, l'orecchio accostato al padiglione, sul petto e sul dorso di Joachim, in tutti i punti che prima aveva percossi. «Bene, bene, Zimsen», disse. «Tutto a posto, per quanto è possibile. La prossima volta, che voleva dire tra 4 settimane, ci sarà certo un miglioramento su tutta la linea». «E quando crede, dottore, che...» «Come? Di nuovo impaziente. Non vorrà mica maltrattare in stato di ebbrezza i suoi uomini. Mezzo annetto, le dissi ultimamente. Lo calcoli pure da quel giorno, ma lo consideri un minimo. In fin dei conti, si vive bene anche qui. Sia cortese anche lei. Questo non è un bagno penale né una miniera siberiana. O le pare che ci sia qualche somiglianza? Bene, Zimsen, vada pure. Venga avanti chi ne ha voglia!» esclamò guardando in aria. Col braccio teso porse lo stetoscopio a Krokowski, il quale si alzò a prenderlo per sottoporre a sua volta Joachim a una visita supplementare. Anche Castorp si era alzato e, tenendo gli occhi fissi sul direttore, che a gambe larghe, a bocca aperta, pareva immerso nei suoi pensieri, cominciò in tutta fretta a prepararsi. Affannato com'era mentre si levava la camicia, non riuscì subito a cavar le mani dai polsini. Poi stette bianco, biondo e magro davanti al consigliere Behrens. Aveva un aspetto più borghese di Joachim Zimsen, ma il direttore, ancora assorto, lo lasciò lì. Krokowski era già ritornato al suo posto e Joachim stava vestendosi allorché Behrens si decise a prender nota di colui che ne aveva voglia. «Già, ci sarebbe anche lei!» esclamò. E preso con quella manona Castorp per un braccio, lo scostò da sé e lo osservò attentamente, non guardandolo in viso come si guarda il prossimo, ma fissando il corpo. E giratolo come si gira un corpo, ne osservò anche la schiena. «Beh», disse, «vediamo un po' come si presenta». E come prima eseguì la percussione. Percosse tutti i punti come aveva fatto con Joachim e su parecchi ritornò più volte. Più a lungo batté alternando e confrontando un punto in alto vicino alla clavicola sinistra e un altro un po' più in basso. Sente? Domandò intanto a Krokowski. E questi, seduto alla scrivania, a 5 passi di distanza, chinò la testa per confermare che sentiva. Serio in viso, abbassò il mento sul petto schiacciando la barba, le cui punte si piegarono all'insù. Respiro profondo. Tosse, comandò il dottore che ora aveva ripreso lo stetoscopio, e Castorp faticò per 8 o 10 minuti mentre il medico lo auscultava senza dire una parola. Portava soltanto lo stetoscopio ora qua, ora là, soffermandosi precisamente e più volte nei punti dove aveva insistito con la percussione. Poi si infilò lo strumento sotto il braccio, incrociò le mani dietro la schiena e guardò il pavimento fra sé e il giovane. Ecco Castorp, cominciò, ed era la prima volta che lo chiamava col solo cognome. Le cose stanno pressappoco come avevo immaginato. Io ce l'avevo con lei, Castorp, e ora glielo posso dire, fin da principio, da quando ebbi l'immeritato onore di conoscerla, e avevo intuito che quasi certamente lei era, senza saperlo, uno dei nostri, e che se ne sarebbe anche reso conto, come tanti altri, che, venuti quassù per divertimento, dopo essersi guardati in giro col naso all'aria, un bel giorno vennero a sapere che avrebbero fatto bene, e non solo avrebbero fatto bene, la prego di seguirmi, a trattenersi qui più a lungo, senza darsi disinteressate arie di curiosità. Castorp era impallidito, e Joachim, che stava per abbottonarsi le bretelle, si interruppe di colpo e tese l'orecchio. Bene, Castorp. E ora, giovanotto, mi stia a sentire. Le dirò alcune auree sentenze. Se non ci fosse nient'altro, capisce, e si trattasse soltanto di suoni smorzati e cicatrici nel suo otre di Eolo e dei calcinosi corpi estranei che ci sono dentro, la manderei ai suoi lari e penati in santa pace, senza curarmi di lei tanto così. Mi comprende? Ma visto come stanno le cose e considerato il reperto, e giacché Castorp è qui con noi, non mette conto che lei faccia il viaggio di ritorno. Tra poco dovrebbe in ogni caso entrare nei ranghi. Di nuovo Castorp sentì che il sangue gli affluiva al cuore e Joachim era ancora là, le mani sui bottoni di dietro, gli occhi bassi. Oltre ai suoni smorzati, disse il consigliere, lei ha anche in alto, a sinistra, un suono aspro, che è quasi un fruscio, e senza dubbio proviene da una lesione fresca. Non dirò ancora che sia un focolaio, ma un punto molle è di certo. E se lei laggiù continua così, caro mio, un giorno tutto il lobo del polmone, che è che non è, se ne va a patrasso. Castor stava immobile. Aveva strani guizzi intorno alle labbra e si vedeva chiaramente che il cuore gli batteva contro le costole. Guardò Joachim, del quale non trovò gli occhi, poi di nuovo il viso del dottore con le guance blu, gli occhi gonfi, ugualmente blu, e i baffetti arricciati da una parte sola. «La conferma oggettiva», continuò Behrens, «ce la dà la temperatura, 37,6 alle 10 del mattino. Corrisponde presto a poco alle osservazioni acustiche». «Pensavo», disse Castorp, «che la febbre provenisse dal mio catarro». «È il catarro?» ribatté Behrens. «Da dove viene quello?» «Permetta che le spieghi, Castorp, e stia a sentire. Circonvoluzioni cerebrali ne ha abbastanza, per quanto ne so. Vede, l'aria qui da noi è buona contro la malattia. Lei ne è convinto, vero? Così è, infatti. Ma è anche buona per la malattia. Mi comprenda, la favorisce, sconvolge il corpo, porta la malattia latente a maturazione. E una siffatta maturazione, non se n'abbia male, è il suo catarro. Non so se abbia avuto stati febbrili anche laggiù nel piano, ma quassù li ha avuti fin dal primo giorno. E non soltanto in seguito al catarro, tanto per dire la mia opinione. «Sì», ammise Castorp, «sì, lo credo anch'io». «Probabilmente si è subito sentito brillo», insistette Behrens, «effetto dei tossici solubili che vengono prodotti dai microbi. Agiscono sul sistema nervoso provocando un'ebbrezza, capisce? E allora si hanno i pomelli ilari. Prima di tutto Castorp vada a ficcarsi sotto le coperte. Dobbiamo vedere se con qualche settimana di letto le facciamo passare la sbornia. Il resto si vedrà poi. Prenderemo una bella veduta del suo interno, non le dispiacerà vedersi dal di dentro. Si metta in mente, però, un caso come il suo non guarisce da oggi a posdomani. Qui non si ottengono successi propagandistici e non si fanno cure miracolose. Ho avuto subito l'impressione che lei dovrebbe essere un paziente per bene, con più disposizione a fare il malato di quanta non ne abbia qui il generale di brigata, che pretende di svignarsela non appena gli capita di avere qualche linea di meno, come se il comando coricati non valesse quanto quello di attenti. Il riposo è il primo dovere del cittadino. L'impazienza è soltanto dannosa. Dunque, spero che non mi vorrà deludere, Castorp. E non ammetto che lei smentisca la mia esperienza degli uomini. E ora via, vada in rimessa. Così il consigliere Behrens conchiuse il colloquio e andò a sedersi alla scrivania per riempire, scrivendo da persona indaffarata, l'intervallo fino alla visita successiva. Il dottor Krokowski si alzò dal suo posto, si avvicinò a Castorp tenendo la testa reclinata, posò una mano sulla spalla del giovane e con un energico sorriso che scoprì tra la barba i suoi denti giallognoli gli strinse cordialmente la mano. Thank you.